Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi parliamo dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, e lo facciamo insieme al dottor Paolo Biasci, che è presidente nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Allora, dottore, la socialità dei giovani al tempo del nuovo coronavirus è tanto vitale per loro quanto cruciale per contenere l'epidemia. E voi ne siete talmente convinti che avete lanciato una nuova iniziativa proprio per creare tra i ragazzi consapevolezza sul ruolo che possono avere nel ridurre la diffusione del virus. È proprio così. Crediamo che il nostro ruolo di pediatri di famiglia, tra le responsabilità che abbiamo, proprio quella di parlare alle famiglie e ai figli, quindi ai bambini e ai ragazzi. È proprio per questo che abbiamo creduto opportuno, in questa emergenza coronavirus, di uscire con una campagna di comunicazione, di educazione sanitaria rivolta ai ragazzi e ai bambini. Abbiamo utilizzato delle marionette, dei pupazzi che si chiamano Mia e Meo, che potete trovare su tutti i nostri social o su un sito dedicato, e abbiamo costruito dei poster che abbiamo messo in tutti i nostri 7500 studi diffusi in tutto il territorio italiano, con anche dei video che possono essere scaricati. Ci sono le indicazioni molto semplice, è divertente, perché voi spiegate proprio ai ragazzi i comportamenti da tenere e li invitate ad avere proprio un ruolo attivo nel tutelare la comunità, i genitori e i nonni, che proprio loro stessi potrebbero in qualche modo infettare. Dottore, mi sembra che sia importante far passare questo messaggio, responsabilizzare i ragazzini, bambini e ragazzini. Voi vi occupate, no, dei nostri figli fino ai 14 anni? Sì. Da 0 a 14 anni sicuramente sì. E è proprio questo, proprio quello che lei ha citato, che è stato il pensiero che noi abbiamo rivolto ai nostri piccoli pazienti, giovani pazienti. Dottore, che risposte avete avuto dai genitori? Sicuramente anche nel suo ambulatorio saranno arrivati o avranno chiamato dei genitori un pochino preoccupati o per chiedere informazioni su come trasmettere queste indicazioni. Lo sappiamo, i ragazzini si sentono invincibili, ma vanno responsabilizzati. Dottore, quali sono le paure, i timori, le resistenze? Che cosa dicono i genitori al pediatra? Certamente, questo che lei dice è molto importante. Abbiamo visto che con la chiusura delle scuole è avvenuta una situazione, si è realizzata una situazione un po' che non andava bene, perché abbiamo visto nel fine settimana e in questi giorni fuori ragazzi che stavano tutti insieme, che avevano preso questa chiusura delle scuole non come un po' come una vacanza, ecco. Un po' come una vacanza, esattamente. Quindi è proprio partito in quelle ore cioè l'idea di voler dare un messaggio ai nostri ragazzi. E da lì l'idea dei medici pediatri, che si sono alleati per proprio arrivare ai ragazzi e quindi alle loro famiglie. Spesso, dottor Biasci, proprio lavorando sui ragazzi si arriva ai genitori, e quindi i ragazzi portano davvero anche quelle energie per il cambiamento dello stile di vita. Proprio da loro possiamo imparare. Direi proprio di sì, anche in altre circostanze. Il messaggio che noi riusciamo a dare ai ragazzi, ai bambini, agli adolescenti, chiaramente investe positivamente tutta la famiglia. Questo avviene in questa circostanza, ma avviene anche in altri momenti in cui magari parliamo delle vaccinazioni. Certamente il messaggio che noi possiamo dare all'interno delle famiglie è un messaggio che arriva, è un messaggio positivo e che è anche efficace. Quindi restate a casa, ragazzi, lo evidenzia bene questo fumetto con le relative regole, e voi avete anche voluto accompagnare la campagna con gli hashtag distanti ma insieme, solo uniti si vince, stiamo a casa. proprio perché nel relativo isolamento in cui sono costretti, i ragazzi, i bambini, trovino proprio un modo per sentirsi vicino in questo sforzo, in questa battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme. Dottore, vogliamo ripercorrere i sei punti della vostra dei consigli di mio, mia e meo? Sembra una scelta di lingua? Sembra, sì, è vero, ma comunque sono tre pupazzi fantastici e molto carini, sì, soprattutto quando vediamo quando i bambini vedono l'animazione sono molto divertiti. Beh, la parte importante anche perché, dottore, mi scusi, non dobbiamo allarmarli, dobbiamo responsabilizzarli ma non allarmarli. Questo esatto, è assolutamente importante. La responsabilizzazione è la parola giusta. In effetti la situazione purtroppo non è tanto semplice con i dispositivi che il Ministero e il Presidente del Consiglio ha messo in atto. Crediamo sia al momento nelle famiglie, all'interno delle famiglie, forse c'è il fatto di dover stare in casa, crea dei momenti inaspettati in altre fasi della vita fino ad oggi, e credo che richiede dei momenti di contatto maggiore tra i genitori e i bambini e i ragazzi, e quindi vanno sfruttati in maniera positiva, oltre che con le indicazioni che vengono date nei post di lavarsi le mani, di usare tutte quelle attenzioni, la distanza dagli altri bambini, eccetera, di coprirsi durante la tosse, il raffreddore. Ecco, ma dottore, mi scusi, lei come fa a spiegare ad un ragazzino, parliamo di ragazzini ma parliamo anche di bambini, ci impresti un po' la sua esperienza di medico, immagino anche di genitore? Insegnare che quando hanno, per dire, la tosse o il raffreddore e magari non hanno sotto mano il fazzolettino perché purtroppo se lo sono dimenticati, lo devono fare, devono tossire o starnutire con l'appoggio dell'angolo del gomito, eccetera. Quindi sono tutte piccole cose che ai bambini piccoli possono essere insegnate attraverso i giochi. Voi siete naturalmente con questa campagna impegnati in prima linea, volete raggiungere le famiglie, i genitori dove ci sono bambini, adolescenti, dove ci sono anche probabilmente i nonni. Che messaggio date ai bambini per relazionarsi con i nonni e quindi mantenendo le giuste distanze, ma portando ai nonni anche quell'energia, quella vitalità che riempie i nonni il cuore? Sicuramente sì, i nonni sono un aspetto fondamentale sia della crescita sia dell'educazione e sia anche un supporto alle famiglie. Sappiamo bene quanto è il valore dei nonni. In questo momento c'è, ovviamente la situazione mette un attimino in difficoltà perché sono proprio le persone più anziane, sappiamo benissimo, a dover essere particolarmente riparate. Quindi forse i bambini e i ragazzi devono capire che quelle attenzioni che a loro in questo momento richiediamo particolarmente sono proprio perché vogliono bene i loro nonni, e quindi è una sicurezza, una maggiore tranquillità per la salute dei loro nonni. Dottore, in questi giorni i bambini naturalmente sono a casa da scuola, vivono di più in famiglia, vanno anche un po' intrattenuti, perché se è vero che giocando si cresce, è importante ricordare anche ai genitori di preservare e organizzare proprio dei momenti di gioco in casa, perché il gioco, i dati lo dimostrano, oltre che l'esperienza di ciascuno di noi, è veramente un nutrimento per la crescita dei bambini. Di che giochi stiamo parlando, dottore? Ma dunque, noi suggeriamo come sempre, e anche in questo, di non abusare troppo dei giochi elettronici, perché sappiamo che comunque spesso sono troppo utilizzati, troppo abusati dai bambini, e cerchiamo di favorire la lettura. Come dicevo prima, momenti di vicinanza dei genitori che i genitori devono utilizzare per dare delle buone indicazioni. Quindi perché no un bel libro? Perché no un bel libro, perché no un gioco da tavola, dottore, e perché no imparare, magari creare delle favole insieme. Esattamente. Direi che in tutto questo vedo un po', se vogliamo, un ritorno un po' al passato. Quando eravamo piccoli noi, dottore. Ecco. Molti anni fa, purtroppo. Un po' di anni fa. Po' di anni fa, quindi ai genitori... Stimolare un po' la fantasia di inventarsi giochi. Bravo. Piuttosto che andare sul gioco sempre. Sì, va bene il gioco standard, come lei ha citato, il gioco da tavolo, ma io credo che se penso a quando eravamo bambini, le generazioni passate, i giochi a casa ce li inventavamo anche con semplicità. È vero, quindi uno stimolo alla fantasia, alla creatività. Dottor Biasci, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Figuriamoci, grazie a voi, buona giornata a voi. Grazie. E noi ci sentiamo come sempre a mezzogiorno, vi auguro una buonissima giornata. Un saluto da Nicoletta.